casino. Bravo. Non c'è problema. Attento, Giulio. Sì, avanti. Santiago 9 quasi 9, 8 e mezzo, dai. Vabbè, da 7 che era poc'anzi, adesso ha migliorato un pochino allora, dai. Sì, ha migliorato. Comunque anche con picchi positivi. Sì, dai. Va bene Giulio, grazie. Lo sto piazzando, ho messo un piccolo amplificatore perché sennò non rende questa roba. Ok, sì, va bene, non c'è problema, va bene. Dai, così quando esco ti chiamo, vediamo, fino a dove mi accompagni. Va bene, d'accordo. Va bene, Giulio, ciao, Tino, ciao. Avanti, Gianni. Ciao, sono agganciati con il 747, dai. 910 radio 5 e questo è l'impianto dietro con la macchina, Gianni. Va bene, dove stai andando, Tino? Da nessuna parte, mi sto facendo dei lavoretti qua, dai. Va benissimo, Tino, va benissimo. Dove l'hai piantata la tenda? Sopra l'impianto, wow, può essere solo l'ampli e giusto l'alimentazione, era già fatto l'impianto. Ah, bene, che antenna c'è? La mia, la 2-1. Andà bene, dai. Va bene, anche se è un po' lunga, per un cazzo, basta, devi stare attento per un cazzo. E che se ne frega, quando si spiega, ma la cambiata. Va bene, sopra il tetto, sopra. Grazie, lì funge bene. Ho capito. Anche la mini va bene, Tino, l'ho provato io, va bene. Dice, due segnali in meno, non è la faccia. Due in meno, sì, già lo so. Va bene, dai. Ti lascio che continuo a fare il mio. Ciao, ti vedo, grazie dei controlli. Ciao. Chi è? Ciao Giulio, ciao! Ciao Tino, ciao Natali! Ciao Giulio, io ero disperato che non ti ho sentito né ieri sera né oggi. Natali, mi chiami al cellulare, per favore, che devo dire una cosa urgente. Aspetta, se trovo il cellulare. Sì, aspetta che l'ho trovato. Ma mi hai sentito ieri mattina però, Natali? Ti ricordi che eravamo insieme a Sandro? Eia, però giù è entrato Gianfranco, è entrato. E in tutta la sera non ti sei sentito, poi mi sono ricordato del Frigideur. Appunto, ieri avevo l'operaio qua che me l'ha riparato, che poi in realtà non aveva niente, era andata solamente in blocco perché si era bloccata la ventola di raffreddamento, niente di più. Liberata quella e tutto a posto, e adesso funziona alla grande. Era quell'amico che tu sai che fa questi lavori qua e me l'ha messa a posto. Lui te l'ha messo a posto e volevo telefonarti a dirtelo. Vabbè, dai, un attimo che sono al telefono. Sì, d'accordo, perché mi sono ricordato che magari, cioè veramente gli avevo chiesto un'informazione, ma ha detto no, quel tipo non c'è più, perché io avevo già il centro assistenza e invece non esisteva. Allora, per informarmi, ho chiesto a lui, essendo del settore, e lui mi ha detto ma rifaccio io quei lavori. E allora cosa si esiste a Vignaroghi, a Giuseppe Twizzler, che qua mi si è scongelato che ho buttato 150 euro di carne senza carne e pesci. E così ho fatto. E arrivato la sera e è tutto a posto. Vai Gianni Magni. nessuno c'è rimasto qua. Giulio, ci sì? CQ10, c'è rimasto qualcuno in ascolto? CQ10, c'è qualcuno in ascolto? C'è qualcuno? Ci sono io già. Sì, stavo guardando nell'agenda che c'ho. Non c'ho mai fatto di lei, avvisare a Marco, avvisare ai denti. Non c'ho un sacco di chiedo. È un macello. Ha detto mio hermano, devo spostare la sardina, era. Dice il campagna di casello. Cosa? Ho fatto la parlare. Sarà un campanile di casa Giulia. La mamma di Vicino si è incinta. E cosa ci vuoi fare? Giulia. Stamattina mi sono fatto a casa sino all'ospedale, da qui. Da voi la giornata che ti ha già arrivato la mattina a Franca, a fare italiana. E me la sono potuto tornare a piedi. Poi al ritorno di nuovo sotto il sole, casa, torno a piedi, sempre con un po' di così. Ma già c'è la differenza dalla Fiat che ha fatto le stesse cose, ha cambiato gli uffici 350 euro, da Franca tu paghi 150 euro l'Antalya, cambiato le stesse cose. E beh, è logico che c'è differenza. Ah, Franca è bravo, bravo. C'è un'officina piccola ma lavora bene, c'è sempre lavoro, tu non lo vedi mai con i mani in mano, sempre con i mani da Roma con via. Infatti a me metto di aspettare che dovrò fare la funzione a una macchina e all'altra la soluzione dovrò fare. E mi ha dato appuntamento per la settimana dopo, perché non c'è un rapporto. Purtroppo l'officina è quella che è lì. Poi ho preso un'officina più grande, c'è qualche macchina fare in Belgio. Lui. Io rubino, avendo l'officina più umana, avevo pure un personale. Ma veramente l'avevo acciappato sparando con fucile. E al campo, va lì lui. Io già sono un anno che non ci vado più io. Basta andare. E bisogna che ti riprendi, ti credi sia così. Purtroppo. E la realtà di volta a pagina e ricomincia da capo. Cosa sta mantenuti, no? Se non dici, non fai. Ricomincia che ha tutta a tua e via. Sì, adesso vediamo. Mi devo riprendere un po', che sennò e cosa voto? Ma qui cammina a posto. E dove sono tutti? A me mi stava parlando questa storia che quando piace la mattina Marco, come se fossi cocco. Marco, poi mi rimette in sesto, una volta che faccio qualche passo mi rimette in sesto, però smava. Tu hai detto gliela al dottore come mai questa storia qua? Dice che... come si chiama? Che abbiamo un liquido dietro le orecchie. Praticamente secondo la posizione che tu assumi dormendo si sposta questo liquido e questo liquido tiene equilibrio al suo corpo. Secondo come si sposta ti fa questo effetto qua. Sì, ho capito. Una volta ho chiamato l'ambulanza perché mi sono spaventato. Ho fatto l'ambulanza, mi hanno portato all'ospedale, mi hanno fatto un flebo, mi hanno messo sul pistolettino, sono messi giù l'otturno, mi hanno fatto l'allarme, ho seduto sul letto, mi sono spaventato, da una parte all'altra per farmi tornare il sesto pistolettino. E alla fine ce l'hanno fatta. Sono riuscito a stare in piedi, mi hanno fatto camminare il dito sopra nella fila della mattonella per vedere se camminavo il dito, mi hanno fatto camminare, già sono lì a posto, si era spostato quel gel che ci abbiamo dietro il liquido, si chiama, non ricordo come si chiama questa malattia, non è una malattia, sono può succedere momentaneamente. E anch'io c'ho poco equilibrio. Ah, vero? Nero qui siamo. Ah, vero? Da Nannini, e beh. Va bene, devo andare in Italia a farmelo programmare questo, perché i dati da connessione dati non va. Ma vabbè, già lì, io già l'uso in casa più che altro. Ma se abbassi quello, ecco, magari si capisce un po' meglio. Toglie oppure non si può abbassare. L'ecco è quello del baracchino. Cazzo, va bene. Ciao, vai, te lo fa. Io ho anche il numero di quel tipo, Mi ha scritto, mi ha chiamato anche, l'ho messo in coso, in l'ho memorizzato. Mi ha chiamato per vedere come andava l'Aica Mobile, gli ho detto bene. Oh, a me mi andava tutto quanto, però non so se dipendesse dal telefono, perché prima me lo faceva con Vodafone, poi ho messo l'Aica Mobile e faceva lo stesso, quindi doveva essere un telefono, perché adesso non me l'ha fatto più. E era bella, ci sentiamo dopo che vado a casa. Dipende da Natali. Ok, buon viaggio. Ciao Luca, ciao, ci sentiamo. Dove stai andando? Da Marina oppure stai ritornando? Al monte sto salendo, ciao, a dopo. Ciao, ciao. Andare, tutto fatto? Dai, preferisco non parlarne qua, se vuoi ti chiamo e ti spiego, dai. Ok, andare. Avanti, Tatani. Buonasera. Scappa, ok, c'è stato un buonasera. Attenzione, Brocco bellissima sarda, se copiate Salvatore sulla pedagogia, cambio. Scappa Salvatore, una stretta di mano, buonasera, 7351, più cordiali. L'operatore doppio room, Gianni doppio room che super cordializza, avanti. Che famiglia, un forte abbraccio, avanti per te, città di Genova, cambio. Ma sono già le 8, sono, cazzetteso aveva ragione, sta mugugnando. Adesso me la portavo, là, ci sentiamo, Natali, dai, che me la portai giù il cane. Non lo so se a te ti tocca, stasera. No, io già pusciato, già mangiato, e già brumido. Tu chi tu vai? No, l'ha portato mia moglie stasera. Stamattina l'ho portato io e stasera mia moglie. Bravo, effendi. Ok. Ah, vai, Drumindu, si è fatto un dondo, ha già mangiato, gli ho dato il premio perché ci ha mangiato tutto. E lui è a posto. Salutato. Oh, Natali, ma l'hai detto di lui Arcobaleno? Lo stavo leggendo, per sapere se è maschio o se è femmina bisogna fare il DNA addirittura. Io lo so già, i miei sono una coppia, so già qual è maschio e la femmina, già fatto tutto. Te l'ha fatto con le salvatori, DNA. Il maschio c'ha il petto un po' più arancione e la femmina ce l'ha un po' più chiaro. Però sono quasi uguali di colori, anche i maschi e le femmine sono quasi uguali di colore, dai. Ma sono bellissimi da vedere, c'hanno dei colori accesi, tutto bello. Sono belli, già l'ho visto che sono andato a vederlo. I miei sono piccoli, siamo a 3 mesi appena, siamo a 3 mesi ancora, però già sono belli. Sono bellissimi, te credo. Se ci pensi, fammi sapere. A te li faccio lasciare di meno, va. Quanto costano già? Certo non sarà giusto, scemo da miglia, questa non vede di raghi. Costano 300 euro l'uno, ma a me 250 me lo dà. Quel prezzo suo è... Oh, iaia. Cazzo. Vabbè, dai, già, ci sentiamo se devi andare a portare il cane. Io mi guardo un po' di TV, vuol dire, tanto va, non entra più nessuno. E già, ciao Natali, buona serata, ciao ciao. Ciao ciao. Sono arrivati, però... state robe? Sì, Frank. Ma che è successo? Si sta chiedendo la cena qua, ma dove stanno i posti qua a Pugino, eh? Guarda, tanto quello posso un po' di ora le avanti, posso, eh? Hola, chicos. Per esempio quelli Santa Fe perché c'è uno sabato, sono ad Alghero. Ah, capito. Mi ha raccontato la storia l'amico mio, com'è andata l'altro giorno quando sono andato di vigile. E va? Siamo amici. Diciamo che dici che sono andato di vigile, cazzo, ha fatto un casino, ne fatto. E dove l'ha fatto? Ha messo un coppa, l'ha figliato tutto, ce ne sono andate, non gli ha chiesto neanche niente. Gappa gappa. Via. Un casino, Enzo, un casino. Sto occupando solo un pubblico, sa. Ma in quei casi, cioè, anche loro hanno sbagliato, perché in quei casi ti arrangi, lo fai nelle chioschette lì, piatti meno roba, piatti, cioè se hai una batteria elettrica, ci metti una batteria elettrica che occupa meno spazio, qualcosa, un po' ti arrangi, eh. Beh, certo. Certo che sì, diciamo che fare quel tipo di lavoro, un lavoraccio, Enzo, è un casino, è un cacchio, ti bisogna di boi, ti mettimi quella, ormai non ce l'hai, poi le dici se non mi dai, un casino. Infatti anch'io l'ho intenzionato di farlo il karaoke, ma poi ti manca che ho provato di fare, tanto la gente di merda in giro e boh. No, vabbè, devi avere un po' di tutto, devi avere, no, se lavori in posti seri, no, quello che sei pure tu, quell'amico mio, non è karaoke, quell'amico mio che gli ha fatto la serata, quello latinoamericano. Andati, cazzo, giunti di vigile, l'hanno fatto di montato, perché non l'ha pagato solo pubblico. Però prima di iniziare una serata, uno deve andare un giorno prima almeno, deve parlare con le condizioni, come questo, come quest'altro. Poi dopo inizia, o giorni prima, devi passare per capire un po' com'è la cosa. Ah, beh, certo. Non è che io piazzo e poi viene quello a rompermi le scatole, no, non esiste. E io a casino, un casino. Capare, cara rocca, la femmina ti arrangi, è quella la cosa, devi avere un po' di tutto e via. Ma allora, il discorso è che la gente di merda, la gente di merda c'è in giro. Se di buona è arrivata una girata, e poi siamo andati a farri, e poi da poi siamo andati facendo tutto quanto, e uno è così, no, no, è un casino, cioè c'è troppa gente di merda. E ragazzi, piano i cazzi di bodyguard per fare un travaglio del genere. Come tutte le cose, ma sei tranquillo che io al locale gli avrei fatto una cosa, gli avrei fatto, soprattutto in certi posti, cioè lo puoi fare, in quell'ora lì, per fare un karaoke gli avrei chiesto appena di più, gli avrei fatto la ricevuta, come gli hai fatto la cosa, che poi ti puoi assicurare in quell'ora che tu fai quella serata. Lo sai tu, tutti canti di sei cose, ma tu gli fai la ricevuta al locale, se ti facciano qualche cosa, chi l'ha fatto e cosa, gli prendi nome e cognome, ti posso pagare la roba, non mi pare vero, ti compaggio la roba nuova. Una crisi di re, a te magari domani, ci preferisco prendersi la denuncia piuttosto che pagare la roba a te. Posso mettere un avvocato come risarcimento danni, me ne ha fatti nuda a me. Poi lui faccia quello che vuole. Tranquillo che se ha beni a casa e tutto gli conviene pagare. In mezzo a 10 non la ciapichi su i gusi. Ti conviene pagare se no le sequestre già mica che cosa. Io ti capisco tanto, ma sai che anche su stessi voi, per carità, va. Per carità, so che quello che c'ha un bicchiere di birra di troppo, e poi che si fa nel casino. Troppa gente di merda, troppa. No, io richiamo subito la polizia. No, non aspetto che mi sfaccia tutta la roba, chiamo i carabinieri, la polizia, l'avverto, se tu tiri roba, io prendo nome e cognome e ti mando il conto a casa, ti mando. Verrà che ti basta tutto il rumacchino di fare il peritoso. Sì, ma la gente non ne ha fatti nulla, gente ne paga domani, sì. Verrà che devo paga, te lo dico io. Ma con le buone e con le cattive. Io dico che lui lo paga. Se poi c'è gente che è a casa, bene, sono, allora deve stare molto attento, deve stare, perché cazzo ti mando la lettera all'avvocato, tu mi hai facciato che c'è cose, però è che gradata ti passa tutta, no, se non vuoi bigliificare che cosa, tutta un'ora ti passano macchine. Vabbè, però io già calizzavo, non vengo aria pace, mi minnando, perché poi ti compromette un casino, invece mi dite a pace, non capite a via. Lui, no, non c'è bisogno di comprometterti, il primo che fa casino, io avverto, il primo che fa casino, qua chiamo i carabinieri, non guardo in faccia a nessuno, non guardo in faccia a nessuno, e lo avverto, prima di fare la serata, chi ci rimette ci rimette, ci rimetti tu, chi di buono, di niente, di due, non me la fotti nulla. Cioè, succeda quello che succede, no, non so, ma sì, se non me frega niente, me la paghi tu la roba, te la paga niente, no, a me non interessa, non interessa niente, subito alla prima, come ti tengo un casino, poi facciamo subito i carabinieri, dico cosa sta succedendo. Vabbè, corriamo, per carità. Ciao, mi piglia a fare un gulla dei bidocciose. Poi c'è una roba ora una serata, perché 1-4-5, chiamo la macchina. Ma io fuori, tutta e ciao. Poi voglio vedere a chi è che c'è. Cioè, bisogna essere cattivi, bisogna essere proprio di mari, proprio pitbull bisogna essere con queste cose qua. Cioè ti comporti bene, va tutto bene. Sono quelli, sono anche quelli lì. Però la putidini secondo un dero fatta non bisognerebbe un culo del culo di fuori, non è così, no. Parlo in un circolo che conosco io. A vedi cosa ti fate. Vabbè. Il discorso è come ti comprometti, è un casino. Ci sono quanto ha fatto lo zip. Adesso sappiamo quanto arriverà questa volta, per carità. Io come mi raggiungo in tutta, mi raggiungo dalla mezza di vedi. Ah, capirà. Ah, questo ragazzo l'ho dato a Tino, Tino si chiama. E cosa sta prendendo la fa? No, gliel'ho venduta, no, l'ha tanta arruinata. Cazzo, che gente zozzona, ragazzi. Beh, siamo terminati i negozi. Potrà zare così, no? Lo signori Zuia. Per carità, io le... cioè, avendo mezzi di tratterie, non bene, non di più. Lo ZP via l'ha messo bene, abbastanza bene. Doveva essere mezzo rognoso, doveva essere, cioè, a trattare la roba così. Cosa gli ha fatto? Che gli ha fatto? Gli ha cambiato il colore, l'ha fatta nella bomboletta, ha fatto i fascioni neri. Ma, fa di chi? Tutti gli adesivi. Patoriga. Sta rovinata. Cazzo, l'ha pagata, ha fatto con 3,50 più 120. 4,70. Più uno su 4 di assicurazioni. Vabbè, conta il tuo, dove la scende a base? Meglio tu vuoi dire contatti, ti devo dare la pago subito, vabbè, prima cosa, prima di tutto fammi un passaggio, vabbè mi dai di una, e ti do pure la moto. Vabbè, è logico, se devo dare di una, moto non vinnendo. Devi fare anche il passaggio in questi, nei nuovi libretti. Ciao, quanto si paga il passaggio in quelle moto? 120. Ma sai che ne varia. E tanto. Ma. Se ti vuoi qualche canto una macchinetta minoretta. Lu, bianco per me, ci sentiamo dopo. E io tu. Hola, Luca, ci sei? No, c'è Luca. Chi è avanti? Buongiorno. Buongiorno anche a lei. Come mi ascolti, caro? Bene, Antone. E dove sei? A casa di mia sorella. Capo, ma c'è con un'antenna piccola? Quanto lei piccola, no, ma diciamo che l'antenna fatta finale, e che altro. Capo, sì, un Santiago 8 Radio 5. Ok, ciao, va bene. Vabbè, senti lì. Ehi, aspetta 10 minuti, ti chiamo fra... questo si chiama la cosa, 5 minuti dammi e ti avrei chiamato. Capo, già sono qui, tranquillo. Ok, va bene. Vai, vai. Luca! Allora, 14 Sugar Delta 415 Joachim, 14 Sugar Delta 415 Joachim, le département 85, la Vendée à l'écoute. Cosa stai dicendo? body. And the one we be free. Bye-bye.